questo ormai no, non cambia niente. Lo sai, rimani ferma lì. Non ci sono scuse per nasconderti. Mentre cerco sempre la tua vicinanza, tu mi provochi solo sofferenza. Ti allontani sempre più da me e pensi che sia facile. Guardami, perso qui e desolato, credimi, io ti ho sempre amato. Vuoi fuggire via da qui, amore?